140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie e il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Studi di Radio 24, Milano. Il suo Rocksteady ha debuttato al numero 1 e considerato il più grande freestyler italiano. Il suo nome di battaglia è Enzi. Spiegare il freestyle è difficile spiegarlo a parole, basta che uno lo ascolta la prima volta e lo capisce. Però se dobbiamo proprio spiegarlo in italiano, siccome ho la frase preimpostata, è la capacità di improvvisare sul momento, su delle basi, su un qualsiasi argomento, ovviamente tenendo il ritmo che è classico di questa musica, quindi del rap. La regola è questa dal giorno 1, yeah. Rispetto di tutti, paura di nessuno. La regola è questa dal giorno 1, yeah. Rispetto di tutti, paura di nessuno. Perché sono one of the best, yeah. Al microfono ancora sono one of the best, yeah. Se non sapevi che sono one of the best, yeah. Adesso lo sai che sono one of the best, yeah. Il pollice su, conta di più in strada. Da nord a sud, ogni crew che conta è linkata. Io faccio tutti contenti, chiamami Don Dada. Ci faccio i soldi ma sta merda non l'ho sputtanata. Ne ho sempre fatto parte, vengo da quando in questa musica spaccare era l'unica cosa importante, quando il gioco del cash dal rapper a distante. L'hip hop è un genere frequentato soprattutto dai giovanissimi, ma non solo. I giovanissimi che guardano a chi fa hip hop, a chi fa freestyle, come un esempio. Tu, in Change, parli anche in particolare con i ragazzi, non troverai i sogni nelle tasche dei jeans. Tu che non hai ancora 30 anni, ma insomma sei lì vicino. Sei un po' un fratello maggiore. Te la senti la responsabilità di parlare con questi ragazzi? Assolutamente, penso che utilizzare questo mezzo per non dire nulla sia quantomeno riduttivo, è come sparare nell'acqua, cioè senza bersaglio. Invece il rap ha questa facilità di arrivare con immediatezza a chiunque, ed è proprio quello di cui il motivo per il quale mi sono innamorato dell'hip hop, cioè mi parlava meglio dei miei genitori, meglio dei professori, meglio dei miei amici, mi capiva in maniera diversa, perché nonostante questa cultura sia completamente lontana dall'immaginario della tradizione italiana, perché non ha nulla a che fare con la nostra cultura intesa come italiani, questo genere era la capacità di adattarsi al tessuto sociale. Fallo oggi, il diavolo è un bugiardo. Continuo a consigliarti di non provarci affatto. Rassegnarti al fatto che le cose qua non cambieranno. Senza farci un patto, tu non ascoltarlo. No. Ricorda, il tempo è un bastardo. Ma non siamo nati vecchi come Benjamin Button. Punta in alto, dedicalo a chi pensa tu non possa farlo. Poi fatti un selfie col futuro perché sta arrivando. In queste strade è facile perdersi. Non troverai sogni nelle tasche dei jeans. So che è più comodo adattarsi e dire sempre sì. Per me non è così, no. Una delle frasi fatte del giornalismo negli ultimi anni è: i rapper sono i nuovi cantautori. Si dice sempre così, sì. Intanto voglio sapere cosa pensi ogni volta che leggi questa frase, perché la si legge ormai sempre. Mi viene il magone ogni giorno. No, più che altro legge. Perché sono un estimatore del cantautorato italiano, quello che tanto oggi davvero mi viene a mancare. Cosa ti piace? Ma De André, ovviamente. Adesso sarei un po' commerciale nel mio tipo di gusti sul cantautorato, però secondo me è il parallelo che fanno, perché il periodo sociale nel quale viviamo, che è un periodo molto confuso, la storia ci insegna che nei periodi confusi le persone ricercano nella musica magari qualche stimolo in più. Il problema non è che i rapper vogliono sostituire i cantautori, è che non ci sono nuovi cantautori che possano sostituire quelli vecchi. Con tutto il rispetto per i bravi cantautori che ci sono, il loro modo di esprimersi è lontano dai giovani d'oggi. Ma un sogno grande come le leggende. Che ami gli animali più della gente, perché gli umani ti hanno delusa sempre. Sei cresciuta forte come le leonesse, ma dolce in un mondo che di dolce non ha niente. Meglio delle principesse ai piani alti, sei bella pure con le lenti spesse. Non vergognarti, tanto noi non siamo VIP, siamo anti. Le stelle brillano lo stesso anche se non le guardi. Siamo amanti, siamo amici, ma non siamo uguali. Siamo meglio di uguali, siamo complementari. Per entrambi tutto era in salita e nessuno può colpire duro come fa la vita. Ogni colpo che ho preso su un drink, so che tu l'hai preso con me. Paura non ne ho, non ne ho. Sti pugni non fanno male come stare senza te. La vita che facciamo io e te non è la classica da coppia italiana, ma non siamo come Jay e Beyoncé, noi siamo più come Rocky e Adriana. Un sinistro da un quintale. Parli anche d'amore in questo disco. Hai trovato un paragone con una coppia cinematografica, sì, per la tua storia d'amore, che ho detto, sì, beh, mi si è aperto il cuore. Devo ringraziare per l'ennesima volta, e non solo per la canzone, la mia compagna, perché poi in realtà qualche tempo fa è iniziata di nuovo la saga di Rocky in televisione e lei non aveva mai visto Rocky. Io gli ho detto, scusami, ma siamo insieme da 8 anni, come ha fatto la nostra coppia a resistere fino adesso che non hai mai visto Rocky? Cioè, dobbiamo in qualche modo rimediare. Quindi abbiamo visto Rocky 1, a 3/4 del film lei mi guarda e mi fa: sembriamo io e te. Quella è la forza di Rocky, non è tanto il fatto che lui picchia più forte degli altri, anzi per il 90% del film lo vediamo prendere pugni, però lei gli dice: ogni colpo che tu hai preso sul ring io l'ho preso con te. La mia vita comunque ha preso una piega totalmente differente. Nel 2010 ho mollato un lavoro a tempo indeterminato per seguire il sogno della musica. Sei pronta? Mi attacco. Facevo il tecnico sui macchinari laser. Ah, cioè praticamente lavoravo preciso, per una multinazionale di Torino. Quindi ho girato tutto il mondo. Tutti questi ragazzini che spendono soldi nei nuovi cellulari eccetera. Ragazzi, prendete i vostri soldi e guardate il mondo, perché nulla vi può arricchire più che guardare il mondo. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Ensi. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.